La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Avvertivo una spiritualità del tutto diversa dalla nostra. Un'abitudine a dare un nome a tutte le cose della natura e a parlare con gli elementi, che mi riportava a quando ero ragazzo e chiedevo alla montagna il permesso di scalarla, o imploravo il vento di placarsi perché altrimenti sarei precipitato dalla parete. Quello che mi sembrava di intuire nella loro cultura era completamente diverso da quello che si leggeva su di loro. Non avendo tradizione scritta, tutti i libri che li riguardavano erano opera dei bianchi, che li avevano rappresentati come rozzi, ignoranti e analfabeti. Eppure gli Inuit non provavano rancore nei nostri confronti. Non ci odiavano per il fatto di aver considerato le loro terre come una proprietà di cui disporre. Semplicemente non capivano gli stranieri e finivano con il farsi schiacciare. Erano troppo miti per difendersi. Cominciarono a volermi bene, penso, perché per una volta era un bianco a chiedere loro che direzione dare alla propria vita. E con il tempo ho compreso che la direzione giusta l'avrei trovata restituendo in minima parte quello che mi era stato dato. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Così Robert Peroni, l'alpinista italiano che da oltre 30 anni vive in Groenlandia assieme agli Inuit. Questo è quanto scrive nel suo libro Dove il vento grida più forte. Peroni è stato un alpinista, sciatore dell'estremo ed esploratore di nuove strade per vivere la montagna e l'avventura. Devo dire che i nostri amici, i miei amici in Groenlandia, mi hanno sempre detto: tu devi rimanere qui, tu sei uno dei nostri, tu sei il primo bianco che veramente conta, che veramente ci aiuta, che ci è vicino, e tu sei l'unico che capisci un po' come viviamo, cosa sentiamo, cosa... come viviamo. E è successo per me, io non volevo mai andare via dall'Italia perché è un posto fantastico, bellissimo, e non volevo cambiare la vita. È successo così, era una scelta. Poi un giorno mi sono detto: adesso devo andare, perché altrimenti non so più, ho un piede in Italia, ho un piede in Groenlandia, forse un altro piede in Afghanistan o da qualche parte, devo farlo. E mi sono tuffato. Quindi diciamo che lei è nato a Bolzano e ha vissuto a Bolzano quasi tutta la sua vita. Giusto, sì, sono nato vicino a Bolzano e ho fatto la prima vita a Bolzano. E lì a Bolzano è nato questo amore forte nei confronti della montagna, ovviamente. Quindi lei nasce come un amante proprio della montagna. In questo senso lei già diventa una persona che si avvicina alla natura anche estrema. Giusto, ho già incominciato a 12-13 anni a arrampicare, a andare in roccia, andare fuori, e poi a 16-15 anni è nata proprio il fenomeno dell'avventura. Con la montagna, senza montagna per me l'avventura non c'era, però sono andato in popoli diversi, ho girato un po' il mondo, e poi a 20 anni sono andato nel alpinismo più estremo, ghiaccio, roccia, e poi ho fatto le prime spedizioni già ben presto, nel 68. E poi mi sono riverso più alle spedizioni di lungo raggio, cioè di attraversare deserti a piedi o in macchina o con cammelli o con delle jeep, e sono rimasto in quel fenomeno dell'avventura. Poi per caso sono venuto in Groenlandia, perché ormai avevo già visto abbastanza montagne in giro al mondo. E poi ho visto un altro mondo, mi hanno aperto gli occhi miei, loro, gli Ivi, e Sì, un giorno sono rimasto lì. Quindi lei è arrivato per caso perché negli anni Ottanta le hanno offerto di fare questa spedizione in Groenlandia e questa spedizione è stata in qualche modo l'inizio di una nuova vita, come ha detto lei nell'altra vita quando parlava di Bolzano. Quindi lei percepisce la scelta di andare a restare a vivere in Groenlandia come la nascita, una nuova nascita. Giusto. Sì, io sono venuto in Groenlandia perché tante spedizioni che ho fatto non erano un grande successo umano, cioè quello interno, e, era un successo esterno, cioè una vetta, una parete o qualche cos'altro, però quello interno mi mancava un po', cioè c'era quel fenomeno umano. E poi ho detto qui la spedizione forse ormai è sopravvissuta come modello e ho creato una nuova idea, cioè sono andato in Groenlandia la prima volta 34 anni fa con 31 persone, bambini, anziani, autori di libri, ornitologi, una signora, sì, insomma diverse persone. E poi lì abbiamo scoperto qualche cosa di sensazionale, perché la montagna o questo fenomeno della natura è molto più largo che andare solo in montagna. E lì poi mi sono incontrato con questa gente e ho sentito qualche cosa di diverso e poi mi sono detto farà la via giusta per me, devo cambiare. You'll help us when you're feeling better and we realize that it might not be for a long, long time, but we're willing to wait on you. We believe in everything that you can do if you could only lay down your mind. Robert Peroni vive in un villaggio Inuit nel quale è stato accolto con molto amore e nel quale ha portato tanto amore. La sua prima volta, la scelta della sua vita è iniziata quando è arrivato in questa terra inospitale per molti e che invece ha saputo accogliere la generosità, l'inquietudine di un uomo come Peroni. Non era sempre facile. I primi anni non ho lavorato, ero solo in Groenlandia e poi ho messo su una casetta, ho comprato una casetta, quello che non volevo mai. E io non sono un proprietario, però poi è diventata una casa più o meno comune di poveri, sbandati, alcolizzati, anche di gente di ogni giorno. E poi ci siamo così incontrati, però poi ho visto che i soldi non bastavano più. Cioè o dovevo lavorare qualche cosa, ma fare in Groenlandia qualche cosa per i soldi non è quasi impossibile. E poi ho visto che si poteva fare qualche cosa di nuovo, di assolutamente nuovo, di fare turismo. Io ero in fondo contro il turismo, perché il turismo è una cosa a due lati, ecco, uno positivo e uno molto negativo. Però poi ho detto che forse è l'unica speranza per questo popolo di andare avanti e poi così ho incominciato. Era molto molto difficile perché avevo solo una stanza, ho dormito a terra con tutti loro. E poi amici sono venuti in Groenlandia, poi qualche d'un altro, poi c'era una società, un'agenzia e così pian pianino abbiamo costruito un'azienda che oggi è la Casa Rossa e ormai abbiamo 70 impiegati all'anno e facciamo una gran parte del popolo vive con noi. La maggior parte delle persone a cui si riferisce sono persone di cultura Inuit? Tutti. Esclusivamente, abbiamo solo un ufficio qui in Europa con 2, 3, 4 persone e tutto l'altro è assolutamente groenlandese. C'è un italiano su che adesso mi aiuta ogni tanto, che fa 5-6 mesi all'anno, fa la stagione e tutto lì. Tutti sono groenlandesi, tutti. Noi possiamo lavorare anche lassù, come io per esempio, però devo tenere conto che io sono sempre uno straniero, io sono sempre un italiano che vive in Groenlandia e devo vivere e voglio vivere con loro, non contro di loro, devo vivere con loro. Questa è la loro vita, il loro posto, la loro natura. La prima volta. Mamma, lascio medicina. Ma come? Hai già dato tutti gli esami del primo anno, perché non continui? Mi mancano le montagne. E allora, cosa vuoi fare? Non lo so, mamma. Ma Robert, quel tuo amico che si è laureato, adesso ha un bel lavoro. Tu non lo vuoi un bel lavoro? Io voglio andare in montagna, non mi interessa un bel lavoro. Adesso magari no, e in futuro? Sono così, non ci posso fare nulla. E allora sei mezzo matto. Questo è uno dei tanti dialoghi che Peroni racconta nel suo libro, Dove il vento grida più forte. Un uomo mezzo matto, come dirà la madre, nato a Bolzano, cresciuto con la passione per la montagna. La prima volta di oggi ha dunque per protagonista un alpinista e il suo amore per la natura, intesa come madre che accoglie, che chiede rispetto e che dimostra nelle sue ferite una delicatezza che pochi le riconoscono, come racconterà anche nel film Parlare con le orecchie, del quale vi facciamo sentire un estratto. A tutte le ombre, a tutte le fusioni della natura, diamo un nome. Se c'è un nome, abbiamo già un'immagine, abbiamo una figura, possiamo immaginarci qualche cosa. E questi venti sibilano, ci raccontano anche delle storie, raccontano dell'altipiano, raccontano della caccia, raccontano della aridità, della difficoltà di vivere in questo posto qui. Bello che sia, perché è bellissimo. Certe cose non le voglio sapere, voglio sentirle. Deve essere, cioè io devo parlare con le orecchie, o forse devo udire con il naso. Sono cose diverse. Si diventa diversi un po'. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all your next meal. How does it feel? Che la natura sia delicata, anche dove tutto sembra duro ed estremo, Peroni lo ha capito. Sono stati gli Inuit a spiegarglielo, attraverso una cultura che non ha quasi nulla in comune con la nostra. Ma il modo di vivere è cambiato molto, però devo dire che le radici sono sempre lì. Perciò le famiglie non sono più così intatte come una volta, come 20 anni fa o 30 anni fa, perché il mondo cambia molto molto veloce, specialmente in questi popoli così isolati. Però devo dire che, per esempio, il fenomeno tra mamma e bambino o da padre a moglie o a bambini è sempre quello. Rimarrà per tanti tanti anni. Non siamo talmente vicini alla natura e a questo fenomeno di questo popolo che finché si cambia qualche cosa ci vuole tanto tempo. Ci sono poi dei giovani che vogliono andare in Danimarca, vogliono andare dall'altra costa, ma quasi tutti ritornano. E se sono in Danimarca, piangono ogni giorno dove vado, cosa fanno a casa mia. Questo vuol dire proprio che la radice non è ancora tagliata. E questo allattamento psichico è sempre quello lì. I bambini non vengono eruditi, non vengono tirati per le orecchie o sgridati. I bambini sono autonomi. È una cosa fenomenale ancora oggi. Naturalmente cambia qualche cosa, ma come detto, ci vuole ancora tanto tempo. Senta, lei ho letto sul libro che ha una figlia. Io ho una figlia a Mantova, sì, giusto. E questa figlia l'ha seguita in questa scelta che ha fatto di vita, è venuta a vederla in Groenlandia, l'ha seguita insomma? Sì, sì, mi ha seguito sempre in tutto quello che ho fatto, in tutte le spedizioni, in tutti i viaggi, e lei ha assolutamente accettato la mia scelta. Ogni tanto dice peccato che sei così lontano, perché sì, mi duole. Però lei viene ogni tanto in Groenlandia, prima è venuta ogni anno, adesso è sposata, ha una bambina, allora non hai la possibilità, però prima è venuta quasi ogni anno e lei capisce anche questa scelta, perché lei capisce, si capisce molto. Lei era anche la prima volta con me in Groenlandia, la seconda volta, la terza volta con spedizioni, e perciò capisce e intuisce quello che faccio e lo accetta. Senta, un'altra cosa che le volevo chiedere è, in questo libro che è bellissimo, dove il vento grida più forte, la cosa bella che emerge è la sua, sicuramente il suo amore per questo popolo, l'amore per la terra in generale, e io ho avuto la sensazione proprio che fosse un libro scritto da un uomo in pace, proprio in pace con se stesso e con gli altri. Le volevo chiedere come vive i cambiamenti climatici, perché sicuramente impattano anche su una terra così delicata come la Groenlandia, per quanto poi estrema e forte, anche delicata. Sì, è una terra molto delicata, questo è vero. E ogni giorno ho delle scelte da fare e una volta dico così, una volta dico così. Ci sono, quando arriva un bianco, un collaboratore dall'Europa, allora dice: ma tu non sai dove andare. Dico: no, veramente non sono sicuro dove va la vita qui, non lo so esattamente, però cerco ogni giorno di fare una scelta giusta. E, è molto molto sensibile tutto il problema tra il bianco e tra l'Inuit o la Ivi, è molto sensibile tutto e bisogna, e questo era il problema e il fenomeno di loro, che nessuno li ha mai capiti, come aveva detto già lei prima. Il danese, per esempio, lo Stato danese ha aiutato moltissimo la Groenlandia, però ha sbagliato moltissimo. Tutto quello che si fa si può vedere da un altro lato. E lasciarli soli forse sarebbe anche sbagliato, forse sarebbe giusto, chi lo sa. Però è molto sensibile entrare nella loro mentalità. Bisogna essere quasi nati lì. Però noi in Alto Adige abbiamo tante montagne, abbiamo agricoltori che sono in altissima montagna, quasi 2000 metri di altezza, e loro sentono, io credo di avere un po' il fiuto di questo, o la sensibilità per loro. Non so perché, è nata così, è fatta così, e mi sono sentito subito a mio agio in Groenlandia, anche se ogni tanto, ancora oggi, mi sento lontano e mi sento un po' strano, però poi ritorno in Groenlandia. Senta, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Nel suo libro spesso c'è questa figura di sua mamma che le dà del matto. L'ha scritto più volte: ma cosa stai facendo, mamma? Mi sto esercitando, abbiamo un figlio matto, oppure vado in Groenlandia, sei mezzo matto. Come mai? Cioè, com'era da ragazzino? Era mezzo matto davvero? Sì, ero un po' matto e lo sono ancora oggi e sono felice di questo. Vorrei dire che noi abbiamo una società equilibrata in civilizzazione, per modo di dire, molto equilibrata, e bisogna vivere in conformità. Io non ero mai conforme, però io ho messo in dubbio questa conformità, però l'accettavo, e perciò non sono diventato un altro, ma sono rimasto io, non contro qualcheduno, ma per qualcheduno. E ero un po' matto, ero sempre un po' matto, già da bambino ero sempre un po' diverso. Non solo nel negativo, ma credo anche un po' nel positivo, anche se tutti non la vedevano così. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I. Da circa 30 anni Robert Peroni è divenuto per molti l'alpinista che salva gli Inuit. Ha saputo cogliere l'occasione e oggi vive assieme a tanti Inuit nella Casa Rossa, una ONG che aiuta a uscire dall'alcolismo, dalla depressione e dalle dipendenze i molti Inuit che ogni anno vi cascano. Per gli alcolizzati cronici non c'è molto da fare, ci racconta Peroni, ma si riescono a salvare i ragazzi che hanno appena cominciato. Lo si fa usando il turismo sostenibile. I ragazzi che stavano per entrare nella dipendenza da alcol diventano ad esempio guide per i turisti. Per lui, partito da Bolzano, con la sola voglia di superare limiti nell'alpinismo estremo, incontrarli è stata una rivelazione. Questa è stata la sua prima volta. Puntata termina qua. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo come sempre l'appuntamento a domenica prossima alle 13.30. Se volete potete riascoltarci in podcast oppure scriverci all'indirizzo la prima volta @radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.